Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 8 minuti. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Una puntata, come potrete immaginare e come avete sentito anche dai titoli dei nostri giornali radio, particolarmente ricca, perché oggi il governo ha approvato il cosiddetto decreto sviluppo, che contiene una serie di misure per dare una spinta all'economia, almeno questo nelle intenzioni dell'esecutivo. Quindi lavoro parecchio intenso da queste parti e lavoro intenso anche tra il secondo e il terzo piano, nella sede del Sole 24 Ore, dove stanno preparando un quotidiano che domani in edicola sarà non solo col testo del decreto ma con 14 pagine di approfondimenti. Ne parleremo tra poco, vedremo di capirne di più. Proseguirà nel frattempo la nostra marcia di avvicinamento all'assise di Confindustria di sabato. Oggi torneremo a parlare di piccole e medie imprese e torneremo in particolare a parlare di semplificazione. Come vedete è tutto collegato, perché molti elementi di semplificazione sono contenuti in questo decreto sviluppo. Naturalmente parleremo dei mercati, come sempre, mercati che, ve lo dico subito, anche oggi non vanno un granché bene, anzi vanno male. Il FTSE MIB cede lo 0,91%, il FTSE All Share lo 0,89%. Tutto questo allineato sostanzialmente all'andamento di Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,88, il Nasdaq un pochino meno, lo 0,23, lo Standard & Poor's 500 lo 0,74%, e in Europa l'andamento è, come si dice, a due velocità, perché Francoforte lascia sul terreno lo 0,20 in questo momento, Parigi l'1,07 e Londra lo 0,83. Questo è il quadro, con l'euro che quota 1,4594 contro dollaro. Nella seconda parte del programma verremo a quello, all'argomento del quale ci state chiedendo in tanti in quest'ultimo periodo. Potete continuare a farlo, a farci domande al 349-238-6666, naturalmente non solo su questo ma su tutti gli argomenti, che è il famoso decreto incentivi, l'arrivo del quarto conto energia, un altro tema importante e che ha fatto tantissimo discutere, che ha sollevato le associazioni di settore, non tutte a dir la verità, e ospiteremo due opinioni, speriamo il più diverse possibile, per aiutarvi anche ad avere un quadro non solo di quello che è stato deciso ma anche una valutazione di carattere macroeconomico su questi incentivi. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di questa giornata. Materie prime come sempre in primo piano, l'oro aperto in realtà poco mosso a 1544,63 dollari l'oncia, non così il petrolio che ha aperto in calo a New York del 3,2% a 105,75 dollari al barile. Ce lo aspettavamo, perché ieri ci si era arrivati a ridosso con Tamoil a 1,599, la benzina ha toccato quota 1,6 per esso e Total Erg, si rileva un aumento di un centesimo al litro sul prezzo della verde. Vi ricordiamo come sempre il calcolo che facciamo paragonando anche il cambio, perché da questo punto di vista ha una certa importanza, visto che il petrolio si paga in dollari. Ci chiedete del Brent, non cambia molto perché anche il Brent si paga in dollari. Ebbene, allora oggi siamo a 1,6 euro, il prezzo del petrolio è, lo abbiamo visto, a circa 105 dollari, il che vuol dire circa 74 euro, quindi paghiamo il petrolio 74 euro al barile. Nell'agosto 2008, che il prezzo della benzina era più basso, anche se di poco, 1,56, il petrolio lo pagavamo sostanzialmente 93 euro al barile, ossia 20 euro di più, e la benzina però costa di più adesso. Dati dagli Stati Uniti, i sussidi di disoccupazione innanzitutto, più 43.000 a 474.000. Gli economisti si attendevano un calo, però. Veniamo all'Europa, l'Euribor a tre mesi fa segnare un nuovo rialzo, raggiunge il livello più alto dal 9 aprile del 2009, il tasso che le banche applicano fra loro per i prestiti trimestrali, come sapete. È all'1,424 dall'1,415 di ieri. In una giornata nella quale la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati all'1,25%, Trichet dice la politica monetaria resta accomodante e però molti sospettano, immaginano, stimano, ritengono che Trichet possa alzare i tassi il prossimo mese, che la Banca Centrale Europea possa di nuovo alzare i tassi la prossima settimana. Non a caso lo stesso presidente della Banca Centrale dice rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati dopo il rialzo di 25 punti base in aprile. Considerando le informazioni disponibili, continuiamo a vedere pressioni al rialzo sull'inflazione, prevalentemente legate ai rincari dei prezzi energetici e delle materie prime. I dati giunti di recente dal fronte macroeconomico confermano lo slancio positivo della ripresa economica nell'area euro, su cui tuttavia l'incertezza resta elevata. È essenziale che il recente sviluppo sul fronte dei prezzi non dia il via a un ulteriore aumento di pressioni inflazionistiche. Le attese circa l'inflazione devono rimanere ancorate e in linea con il nostro obiettivo di mantenerla al di sotto o vicina al 2% nel medio termine. Questo elemento è fondamentale per far sì che la politica monetaria dia il suo contributo al sostegno della crescita economica e della creazione di posti di lavoro nella zona euro. Continueremo a monitorare molto attentamente tutti gli sviluppi riguardo i rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi. Allora, ci scrivete a proposito di benzina, ci scrive Alessandro, a Napoli siamo a 1,620 già da un mese per quanto riguarda la benzina verde. Là, se non sbaglio, rientra una questione di accise che sono lievemente più alte a livello regionale. Sempre dall'Europa, questioni portoghesi, il piano sarà da 78 miliardi come vi abbiamo detto ieri per quanto riguarda il Portogallo, 52 miliardi arriveranno dall'Unione Europea, un terzo al Fondo Monetario, 26 miliardi di euro dunque. Per attuare il programma di austerity serve davvero uno sforzo nazionale, dicono in una nota congiunta il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn e il direttore generale del Fondo Monetario Dominique Strauss-Kahn. E sempre in termini in tema di economia europea ci sono i dati sugli ordinativi industriali della Germania che hanno segnato a marzo un inaspettato ribasso del 4%, c'è da dire che su base annua la crescita è del 9,7%. Risultato comunque peggiore delle attese degli analisti. Poi ci sono i dati di Confcommercio sui consumi e con questi veniamo all'Italia, ancora al palo nei primi tre mesi dell'anno. L'indicatore dei consumi di Confcommercio segna una diminuzione del 2,5% in termini tendenziali, nei primi tre mesi dell'anno dell'1,9% per il 12° mese consecutivo, consumi sotto zero per così dire. Al netto però della componente autovetture, la variazione sarebbe positiva dello 0,5%. E a proposito di economia italiana, c'è il rapporto del centro studi di Confindustria. La crescita economica è una necessità, ma per l'Italia che era in asfissia già prima della crisi, i dati sulla ripresa faticosa, molto più faticosa che altrove, tracciano tempi molto lunghi di ritorno ai livelli di PIL pre-crisi. Questo nel rapporto che poi affronteremo domani, che verrà presentato appunto domani, un tema che affronteremo più approfonditamente. Nello studio si legge, i dati ci dicono che non sarà più possibile attestarci sui livelli che l'economia avrebbe raggiunto se non ci fosse stata la crisi, che quindi lascia danni permanenti al tessuto produttivo. Le piccole imprese chiedono il supporto del sistema paese. L'indagine su un campione di 508 piccole e medie imprese, la maggioranza degli intervistati, nel 66,4% dei casi auspica un governo capace di potenziare e dare prestigio all'Italia nel mondo. Ci sono poi su Confindustria le parole del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che dice: fate voi qualcosa per noi. Fare qualcosa per noi, non vi aspettate soltanto che sia il governo a fare qualcosa per loro. Sarebbe ora. Il governo italiano sta uscendo dalla crisi globale meglio di altri paesi europei, ha detto ancora il Presidente del Consiglio. Questo ci porta al primo tema di questa giornata, ossia appunto il decreto sviluppo. Allora, questa mattina Consiglio dei Ministri per approvare appunto il decreto sviluppo. Tutto questo, tra l'altro, a ridosso di quel che dicevamo, ossia l'assise di Confindustria Bergamo, sabato prossimo, intitolata L'Italia che vogliamo, per discutere proprio dei nodi che bloccano l'economia del paese, che bloccano la crescita del paese. Saluto Salvatore Padula del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuto, come si diceva, state lavorando piuttosto intensamente. Domani, tantissimo, domani scintille, paginate su paginate, ne approfondiremo tra poco. Intanto noi iniziamo ad ascoltarci qualche file, qualche audio dalla conferenza stampa di oggi che ha visto protagonisti praticamente tutti i ministri economici, compreso naturalmente il Presidente del Consiglio, e a partire dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Iniziamo non proprio dal decreto sviluppo, ma dalla risposta che il Ministro dell'Economia ha dato a chi gli chiedeva della manovra da 7-8 miliardi della quale vi abbiamo parlato ieri, prevista per giugno. Non ne ho parlato. Questo è il provvedimento, questo è il provvedimento economico. E avremo i provvedimenti economici, e sarà una serie, avremo i provvedimenti sul bilancio pubblico. Oggi è quello economico. Allora, ancora Tremonti, non usiamo il bilancio come motore, il decreto legge costa poco, è assolutamente coperto. È un corpo legislativo molto ampio, credo che sia realmente corretto che voi ne prendiate visione, che venga fuori discussione nel paese, ma poi ci rivediamo, per realmente è amplissimo, troverete dentro molte cose, di leggi ne ho fatte tante, questa ha realmente dentro moltissime cose. La cifra comune è che sono tutte riduzioni di oneri, creazione di incentivi, senza usare come motore il bilancio pubblico. Quel poco che costa è assolutamente coperto. Allora, ancora Tremonti, sul sud puntiamo ad una fiscalità di vantaggio. Credito d'imposta per il lavoro stabile a mezzogiorno. Noi abbiamo nel patto Euro Plus fatto a fine marzo, abbiamo ottenuto il riconoscimento di un qualcosa che già stava nel Trattato di Roma, ed era la specificità del mezzogiorno d'Italia. Pensiamo di avere la formula giusta per introdurre in Italia la fiscalità di vantaggio. È difficile, è un processo complesso, ma pensiamo di avere la fiscalità di vantaggio. Per quale ragione? Perché è efficace, soprattutto perché pensiamo è l'unico modo per spendere davvero i soldi europei. Noi sul 2011 rischiamo di perdere 4-5 miliardi, sul prossimo periodo ne abbiamo 43. Il tasso di utilizzo dei fondi europei in Italia è scandalosamente basso e la Commissione europea ha detto che siamo davanti alla Romania ma indietro a tutti gli altri. Quindi noi diamo i soldi a Bruxelles ne trattiene una quota, li manda qua, noi non li spendiamo e non spesi vanno di nuovo a Bruxelles e vanno a beneficio di altri paesi. La fiscalità di vantaggio è un modo per usare davvero i fondi. E a partire da quello che si può già fare adesso, che è il credito d'imposta per il lavoro. Saluto intanto Massimo Cavazza, vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria. Buonasera. Buonasera a tutti. Che ci ha raggiunto al telefono, al quale chiedo di attendere ancora un attimo, così ci ascoltiamo qualche altro audio dalle parole del Ministro dell'Economia, iniziando dalla questione della quale si sta discutendo con una certa rabbia da parte degli ambientalisti sulla questione famosa della concessione delle spiagge. Sentiamo come spiega il provvedimento il Ministro. La vendita delle spiagge è una particolare vis polemica. Se lei legge il testo, non è affatto così. È così in tutto il mondo, cioè questi long lease, questi strumenti, sono diffusi in tutto il mondo. È un diritto di superficie, se vengono meno le condizioni viene revocato. Devi essere in regola col fisco, devi essere in regola con la previdenza. Noi pensiamo che devi assumere giovani lavoratori dentro queste strutture. Non è una vendita. In ogni caso la spiaggia resta pubblica a ogni effetto, è quello che c'è dietro che non è la spiaggia. No, non abbiamo ancora, anche perché tutto un meccanismo in divenire dipende dai comuni. Noi abbiamo dato tutte queste strutture al federalismo demaniale, ai governi locali. Riteniamo che il governo nazionale abbia ancora il diritto di concedere la superficie. Le entrate andranno alle regioni, ai comuni, andranno al Ministero degli Interni per le zone a burocrazia zero. Tutto dipende dai comuni, tutto dipende dalle regioni. Questa legge è una legge quadro su una linea che ci sembra fondamentale per il lavoro in Italia. Continuate a scriverci sulla benzina, ci scrivete, faccio il pieno nella vicina per me Slovenia, circa 25 centesimi al litro di meno. Vi segnalo che tra l'altro oggi a New York il WTI è sceso alla fine del 6,7%, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane dal lato della benzina. Allora chiudiamo il quadro quantomeno dei discorsi, delle parole dette dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, non esaustivo naturalmente, sul fronte semplificazione. Il rapporto fiscale migliora. Vedete le norme che rendono più, come dire, più, per esempio, fiscale. Questo mi rendo conto che non è oggetto del vostro interesse, però chi lavora invece lo capisce. In impresa non puoi più avere un giorno un controllo, un giorno l'altro controllo. Nelle piccole e medie imprese gli accessi saranno coordinati dagli uffici in modo che dal piccolo imprenditore vai una sola volta, se vai più di una volta gli atti sono nulli, ci sono le sanzioni per i funzionari che insistono in quel tipo di attività. Allora, inizierei da qua con i nostri ospiti e in particolare con Massimo Cavazza, lo ricordiamo, vicepresidente della piccola industria di Confindustria. Tra l'altro, tra poco faremo anche sentire un file audio, se avremo il tempo naturalmente, del ministro Brunetta che stima il risparmio di questa semplificazione in 900 milioni di euro per le imprese, che è oggettivamente parecchio. Allora vorrei coinvolgerla proprio sul tema della semplificazione, perché è una delle cose che costantemente vengono chieste, in particolare da voi, ossia dalle piccole e medie imprese. Da questo lato una prima valutazione all'impronta, naturalmente, per quel che ne sappiamo di questo decreto, Cavazza. Guardi, onestamente una prima impronta, sapendo che 900 milioni è sempre una cosa estremamente positiva, sapendo che le imprese italiane pagano in burocrazia circa 15 miliardi, questo è un dato dell'Union Camere, ne abbiamo ancora da erodere, speriamo che abbia una logica e che si avvicini verso quello che chiediamo da tanto tempo. Lei dice lo stock è molto alto, quindi 900 milioni va bene, però insomma tutto sommato ci vorrebbe qualcosina di più. Allora voi tra l'altro avete fatto dei calcoli interessanti proprio a Bologna sul tema di quanto costa quella che viene definita l'oppressione fiscale, perché c'è un costo che deriva dall'alta tassazione e lo sappiamo, lo ribadiamo continuamente, e poi c'è il costo di quella che lo stesso Ministro dell'Economia ha definito oppressione fiscale. Certo, Noi abbiamo questa abitudine, abbiamo fatto una ricerca che abbiamo pubblicato proprio in questi giorni, è una ricerca che si riferisce al triennio 2007-2009 e abbiamo visto che ci sono purtroppo indici estremamente negativi principalmente sul livello di pressione fiscale. Abbiamo dei dati, abbiamo suddiviso la metodologia dell'indagine, è stata suddividere le imprese in tre categorie, ci sono le grandi imprese, le medie imprese, le piccole, che come piccole intendiamo quelli che sono con meno di 50 dipendenti, ma ci fermiamo al livello di fino a 10 occupati, sotto non ci andiamo perché andremo nelle micro e quindi è un campione un po' particolare. Diciamo che abbiamo preso il 2 e il 3% di grandi imprese, il 41% di medie e il 55% di piccole imprese. E diciamo che da un confronto fra l'andamento del valore della produzione aggregata e l'utile antiimposte aggregato emergono dei dati piuttosto significativi. Emerge che dal 2007 abbiamo avuto sempre un processo di sistematica erosione degli utili delle imprese, quindi questo è un aspetto molto importante. Abbiamo visto che l'analisi del campione, sempre aggregata, risulta che il 55% delle imprese del campione subisce una pressione fiscale maggiore del 50%. Addirittura arriviamo in certi casi che si arriva a una pressione, il 22% per esattezza, a una pressione fiscale superiore al 90%. Questo per darti un'idea. Pressione fiscale intorno al 90% è oggettivamente impressionante. A questo punto io coinvolgo brevemente Salvatore Padura del Sole 24 Ore, perché poi andiamo in pausa e ci ritroviamo subito dopo e riprendiamo il discorso proprio su questo tema della semplificazione. Allora, da questo lato, che tipo di lavoro si è fatto nel decreto in estrema sintesi? Dunque, naturalmente non ci sono misure che incidono in modo diretto sulla pressione fiscale, che quindi, insomma, mi spiace dirlo a Cavazza, ma resterà a livelli elevati anche per il futuro. Però effettivamente all'interno del decreto c'è un capitolo abbastanza rilevante che dovrebbe consentire, almeno queste sono le intenzioni e l'auspicio e la speranza di tutti noi, che dovrebbe consentire alle imprese, specie alle piccole e medie imprese, di in qualche modo veder ridurre i costi indiretti che devono sostenere per rispettare gli obblighi e gli adempimenti che le leggi, quelle fiscali, ma non solo quelle fiscali, impongono. In particolare sul fronte fiscale sono previste una ventina di misure, alcune diciamo anche molto semplici, banali, che riguardano ad esempio il fatto che non ci sarà più obbligo per i contribuenti di comunicare ogni anno la propria situazione familiare per beneficiare delle detrazioni dentro il 730 o il modello unico. Altre invece effettivamente... Sì, perché poi questo tipo di misure alla fine, questo non è per dir bene per forza del governo naturalmente, però perché già ce lo dicono gli ascoltatori, alla fine queste misure sembrano piccole, poi in realtà per un'azienda che magari deve gestire 1000 dipendenti, doversi ripassare ogni anno i CUD di tutti i dipendenti per vedere se è cambiata la loro situazione, naturalmente e ovviamente è un costo. Allora andiamo un attimo in pausa, riprendiamo subito dopo. Buonasera da Simone Spezia, bentornati a Focus Economia. Riprendiamo quindi il discorso sul cosiddetto decreto sviluppo, del quale, come vi ricordo ancora una volta, troverete domani il testo sul Sole 24 Ore, oltre che un tot di approfondimenti. Ci chiede un ascoltatore, Salvatore Padula, se ci sono novità dal lato degli studi di settore. No. Dal lato degli studi di settore non ci sono nel decreto novità, ci sono invece novità importanti che, come tu hai ricordato, noi domani spiegheremo ampiamente sul Sole 24 Ore. Ci sono novità importanti per quel che riguarda l'accertamento esecutivo, che era un nuovo sistema di riscossione delle imposte che doveva entrare in vigore, anzi che entrerà in vigore dal 1 luglio, e che il decreto contribuisce a rendere in qualche modo meno pesante per le imprese e per i contribuenti. E ci sono novità anche per quel che riguarda lo spesometro, cioè un sistema di rilevazione degli acquisti fatti dai consumatori, i quali nel caso di acquisti superiori a 3.000 euro sarebbero stati segnalati all'amministrazione finanziaria. Ecco, la segnalazione non avverrà, quindi con grande beneficio, diciamo, anche per i negozianti, i commercianti, non avverrà nel caso in cui i pagamenti vengano fatti con carte di credito e con moneta elettronica. Ecco, quindi queste sono due. Certo, perché quelli sono già tracciabili. Quelli sono già tracciabili. Infatti, una delle cose che spesso viene detta, però abbastanza significativo che venga riproposta con il decreto, è che le amministrazioni pubbliche si impegnano a non chiedere mai ai contribuenti, alle imprese e ai cittadini dati che sono già in possesso di qualche amministrazione. Quindi vediamo se questa sarà la volta buona e questo impegno verrà rispettato. Allora, ancora con Massimo Cavazza, vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria, sembra quasi un primo passo verso la riforma fiscale, Cavazza, perché uno degli elementi che stanno molto a cuore al ministro e naturalmente anche alle imprese e supponiamo anche ai lavoratori è proprio quello della semplificazione, cioè il rendere insomma un po' più lineare tutto quanto. Beh, questo io credo che sia indispensabile, è una forma, visto che la pressione fiscale è inversamente proporzionale alle dimensioni dell'impresa, io vorrei che le piccole, per essere agevolate, siccome hanno il problema di dover adempiere a montagne, dicono 334 ore all'anno, contro le 196 della Germania, per citare sempre la Germania, credo che portarsi su questo tema e cercare di sviluppare qualcosa di importante sia fondamentale, come anche l'ha detto adesso, è importante l'abolizione di ciò che è assolutamente superfluo, fa predisporre alle imprese perché è già in possesso della pubblica amministrazione, dell'amministrazione finanziaria. Credo questo sia un passo avanti che aiuterà molto. Allora Cavazza, finora abbiamo fatto una sorta di sviolinata al governo, tutti quanti. Quello che le chiederei è di dare un giudizio un po' complessivo su questo decreto, se secondo lei, sempre ad una prima impressione, per carità, insomma, senza se ha l'impressione che possa dare quella sferzata che si auspica. Il decreto chiaramente è soltanto per sommi termini, poi verrà studiato nel dettaglio e si vedranno le ricadute delle singole proposte sull'economia, ma io credo che in questo momento, indipendentemente da tutto, bisogna fare molto di più. Bisogna fare molto di più perché quello che ci chiedono gli ascoltatori sempre, Cavazza, e mi sembra una domanda corretta, insomma, come si fa a fare sviluppo senza quattrini? No? No, assolutamente sì, io credo che bisogna veramente arrivare alla riforma fiscale, a rimodulare le cose, ci sono delle decisioni importanti da prendere, decisioni che sono fondamentali e credo che a Bergamo si discuterà assolutamente di questo e a Bergamo usciranno le istanze degli imprenditori, saremo tantissimi e andremo proprio su questi temi per cercare di fare leva e di fare pressione affinché ci sia questa modifica, assolutamente, questa riforma assolutamente indispensabile per dare uno slancio alle imprese. Perché effettivamente sono soffocate e sono anche molto arrabbiate da quello che ho sentito negli incontri che ho fatto sul territorio. Allora, lo ricordiamo dunque, sabato a Bergamo le assise confederali di Confindustria intitolate L'Italia che vogliamo, un appuntamento che non si teneva dal 92, dai tempi della manovra di Amato, un appuntamento che sarà a porte chiuse e non aperto ai politici, e vedremo di capire poi alla fine di tutto ciò che cosa emergerà. Ringrazio intanto Massimo Cavazza, vicepresidente di Piccola Industria di Confindustria, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a voi, grazie. Restiamo invece con Salvatore Padula perché magari riusciamo ad approfondire un altro paio di argomenti. Iniziamo però sentendo le parole del ministro Brunetta, che è l'unico alla fin fine durante questa conferenza stampa ad aver fatto qualche cifra. Solo il tema della semplificazione riguardante la privacy e appalti vale per il sistema delle imprese 900 milioni di euro in meno. Ecco, il totale complessivo contenuto nel PNR dei processi di semplificazione, in parte già iniziati, che adesso attuiamo e che attueremo prossimamente, tocca quasi i 12 miliardi di euro. Sono minori costi per le imprese, minori costi per le famiglie. Ambiente, appalti, privacy, antincendi, semplificazioni burocratiche per quanto riguarda le imprese. Così il ministro Brunetta. Sentiamo invece il ministro del welfare, Maurizio Sacconi, perché all'interno del decreto sviluppo e anche fuori ci sono degli elementi importanti che riguardano proprio il lavoro. Le misure specifiche del lavoro, ricordo oltre al citato credito d'imposta nel mezzogiorno, i contratti di inserimento per le donne nel mezzogiorno e il contratto, la riforma in un testo unico dei contratti di apprendistato. Questo è un decreto legislativo in attuazione di una delega, va ora alla concertazione con le regioni e con le parti sociali, ma entro luglio diverrà operativo con il definitivo esame del Consiglio dei Ministri, in modo da essere strumento immediatamente fruibile per la ripresa, nella misura in cui poi anche le parti e le regioni vorranno promuoverlo. Allora, parleremo dei provvedimenti sul lavoro tra un attimo, subito dopo la viabilità. Veniamo dunque con Salvatore Padula del Sole 24 Ore ai provvedimenti sul lavoro. Apprendistato a parte, mi sembra che da questo lato il ministro sia stato abbastanza chiaro. Dunque, apprendistato a parte, qual è il cuore di quel che è stato deciso? Ma c'è una misura molto importante che riguarda il credito d'imposta per il nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno. Ne ha parlato, lo abbiamo sentito prima, anche il ministro Tremonti. Effettivamente è una misura abbastanza significativa, perché in determinate aree del paese, nelle aree diciamo svantaggiate, che sono grosso modo le regioni del sud, e in funzione di assunzioni fatte con lavoratori che si trovano in condizioni particolari o disoccupati di breve o di lungo periodo, l'imprenditore che assume ne riceve un beneficio, un bonus fiscale pari al 50% dei costi salariali che sostiene. Quindi diciamo è un incentivo insomma abbastanza consistente, un incentivo che già esisteva alcuni anni fa. Le risorse, Salvatore, qua si pescano in realtà dai fondi strutturali. Qua come diceva il ministro, esatto, come diceva il ministro, qua dovrebbero essere ricollocati, riutilizzati quei famosi fondi strutturali che l'Italia non riesce, diciamo, normalmente a spendere come dovrebbe. Quindi questa, anche leggendo insomma il testo che poi domani vedremo sul giornale, anche leggendo il testo sembra di capire, insomma, qui entriamo un po' più nel tecnicismo, un po' più complicato. Mi sembra una misura insomma significativa. Ecco, poi per quello che tu chiedevi prima anche a Cavazza, certo, insomma non possiamo e non dobbiamo illuderci sul fatto che questo decreto consentirà alla nostra economia di ripartire, assolutamente no, io non lo penso, eccetera. Dobbiamo anche pensare, e penso sia anche corretto dirlo, che è un provvedimento che comunque arriva alla vigilia delle assise di Confindustria e anche alla vigilia delle elezioni, quindi insomma una certa carica anche diciamo propagandistica c'è. Però insomma dobbiamo anche essere altrettanto onesti e dire che nel provvedimento ci sono davvero molte misure che secondo me possono avere un significato rilevante. Ecco, la questione delle risorse della quale abbiamo trattato è l'esatto motivo, ci chiedete perché non si fa qualcosa per le famiglie, perché non si fa qualcosa per i consumi. La questione delle risorse è l'esatto motivo per il quale per i consumi non si è riuscito a fare molto. Grazie a Salvatore Padura del Sole 24 Ore, buonasera, e noi andiamo alla borsa. Ciao Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, giornata ancora una volta negativa, il secondo giorno di fila. Sì, le borse venivano da settimana scorsa in cui erano andate molto molto bene, avevano fatto un record, ha infilato una serie di sedute positive, adesso c'è qualche realizzo. Oggi le responsabili tra virgolette principali sono le banche, sono arrivati i conti molto deludenti di Société Générale da Parigi e di Lloyd's da Londra, e quindi tutte le banche principali europee, anche soprattutto a Piazza Affari, sono girate in rosso. Allora, questo il quadro generale, gli indici meno 0,8 per il FTSE MIB, meno 0,77 per il FTSE All-Share, tutto questo mentre l'America perde lo 0,4% e Parigi chiude con un meno 0,95%, Francoforte se la cava guadagnando lo 0,04%. Allora, dei bancari abbiamo detto, un po' tutti i titoli legati al petrolio sono in negativo, oggi il WTI ha fatto un meno 6,7, dicevamo in apertura. Sì, il petrolio è sceso molto, in realtà è un trend che è iniziato dopo l'annuncio da parte degli Stati Uniti dell'uccisione di Osama Bin Laden e ha continuato a scendere trascinando quindi in rosso anche i titoli del petrolio che oggi insieme alle banche sono state insomma tra quelli penalizzati a Piazza Affari. Ma perché il punto qual è? È che si allentano le tensioni nell'area dalla quale proviene il petrolio? Qual è il punto? Fondamentalmente sì, insomma si allentano, c'è una scommessa diciamo su un allentamento delle tensioni geopolitiche e quindi anche di un raffreddamento dei prezzi del petrolio con un miglioramento dell'offerta. Certo, poi qui è anche questione di interpretazione perché ci sono altri operatori che magari per giustificare un rialzo del greggio dicono che dopo l'uccisione di Osama Bin Laden potrebbe ripartire una serie di attentati, insomma, quindi... Vabbè, speriamo di no. Nel frattempo, a proposito dei petroliferi, vi diciamo che l'Eni oggi ha tenuto la sua assemblea, ok al dividendo, al Tesoro e alla Cassa Depositi e Prestiti va una cedola da 1,2 miliardi, che non è niente male, e l'amministratore delegato dell'Eni, Paolo Scaroni, ha detto che quello che sta avvenendo in Libia non avrà impatto sul dividendo di quest'anno, e anche se ha detto se la crisi durerà per tutto il 2011, l'abbattimento della produzione avrà un impatto importante da circa 200.000 barili al giorno. In calo oggi tra gli altri titoli anche Mediaset. Sì, anzi il peggiore sul FTSE MIB, la maglia nera del FTSE MIB meno 2-3% sul titolo del Biscione, diciamo ha pesato soprattutto la questione di Telecinco della controllata spagnola che ha chiuso il primo trimestre con utili in calo del 20% a 40 milioni, ricavi che si sono contratti a 266 milioni e soprattutto ci sono delle previsioni, delle prospettive sulla raccolta pubblicitaria che sono negative per quest'anno. Quindi il titolo ha perso molto a Madrid e di riflesso anche Mediaset ha subito realizzi e sta scendendo a ridosso di quota 4,3 euro. Allora, dei bancari ci dicevi comunque, li diamo, Unicredit giù dell'1,7 così come Intesa San Paolo, la Popolare di Milano dell'1,6, il Banco Popolare dell'1,4, Bibanca altrettanto, Mediobanca giù dell'1,06%. Tra i titoli negativi troviamo anche nel Green Power giù invece del 2,15%. Sì, nel Green Power è un titolo che è cresciuto molto nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, è arrivato oltre 2 euro. Dopo essere stato quotato a 1,6, quindi era stata poi soprattutto anche sull'effetto Fukushima, no? Sì, sull'effetto Fukushima, che c'era stato un po' un ritorno di questa bolla sulle energie rinnovabili. Ovviamente nessuno vuole dire che nel Green Power sia un titolo che fa parte di una bolla speculativa, però comunque si era giovato di questa, diciamo, dell'effetto Fukushima. Adesso qualcuno sta realizzando i guadagni sicuramente. Veniamo al lato positivo dei listini, Diasorin e Pirelli su tutti. Più 1,61 e più 1,5 rispettivamente. Allora, Diasorin è in un trend positivo che è seguito innanzitutto ai dati sul bilancio 2010 che sono stati diffusi a fine aprile con ricavi utili in netta crescita. In quell'occasione Carlo Rosa, l'amministratore delegato, ha annunciato un'ulteriore crescita a due cifre per il 2011 ed è sicuramente una prospettiva che ha ingolosito gli operatori di borsa. Per quanto riguarda invece Pirelli, abbiamo un primo trimestre con utile netto più che raddoppiato a 81 milioni e quindi oggi sono arrivate anche delle promozioni da parte degli analisti e il titolo è stato premiato. Allora, ancora positiva ST Microelectronics oggi più 0,95, l'automatica più 0,93, anche Finmeccanica oggi più 0,84. Bene, Finmeccanica. Finmeccanica. Finmeccanica aveva perso molto terreno però ultimamente, come anche ST. Exor mezzo punto percentuale, Fiat SPA più 0,35. Per quanto riguarda invece Fiat Industrial, perché dicevamo ieri che c'era stata un'indiscrezione poi smentita da Marchione, tra l'altro tra poco ascolteremo anche l'intervista che ha realizzato Mario Platero sulla possibile vendita di Fiat Industrial, no? Sì, ieri mi era uscita questa indiscrezione dalla quotidiana La Repubblica sulla una possibile cessione di Fiat Industrial, poi Marchione aveva smentito questa ipotesi, il titolo ieri era cresciuto molto, a dire la verità anche oggi era in territorio positivo, poi nel finale è passato leggermente in negativo, meno 0,6%, però diciamo che non si è sgonfiato. Allora, grazie intanto a Ceo Condine di Radio Coro Il Sole 24 Ore, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Anche Enel in negativo di mezzo punto percentuale, Prysmian dello 0,46, Mediolanum dello 0,4, Generali dello 0,3, Atlantia dello 0,12, in perfetto pareggio Bulgari e Parmalat, Terna Sud dello 0,06%, Campari dello 0,12, Snam Rete Gas dello 0,14, il Monte dei Paschi dello 0,28, tra i pochi bancari ad aver tenuto, Fiat come si diceva più 0,35, TOTS più 0,4. E il resto dei titoli ve li abbiamo dati. È il momento di chiudere per il giornale radio. Ci ritroviamo subito dopo. Ascolteremo l'intervista che ha realizzato Mario Platero con Sergio Marchionne. Dopodiché parleremo dell'altro grande tema di questi giorni, ossia il decreto sulle rinnovabili, gli incentivi alle rinnovabili, con la voce del ministro e poi due posizioni in campo diverse. Le 18 e 8 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia, gentili ascoltatori, ci chiedete che cosa sta succedendo all'argento, qualcuno parla di una correzione, di una semplice correzione, comunque fatto sta, insomma non abbiamo dettagli da analisti, quel che sappiamo è che è sceso del 20% negli ultimi 5 giorni circa rispetto ai massimi record che aveva raggiunto i 50 dollari l'oncia. Veniamo a Fiat. Allora, il rifinanziamento del debito Chrysler da 7,6 miliardi di dollari con il Tesoro americano e del Canada potrebbe partire il 18 maggio e concludersi entro il prossimo 24 maggio. È quello che ha scritto oggi il Sole 24 Ore, che pubblica dunque un'anticipazione del documento presentato alle banche dall'amministratore delegato di Fiat e Chrysler Sergio Marchionne ieri a New York, e pubblica anche un colloquio con lo stesso Marchionne realizzato da Mario Platero, che ha anche registrato questo colloquio, l'ha trasmesso oggi in America 24, dunque sentiamo l'intervista di Mario Platero a Sergio Marchionne. Se andiamo oltre i 50.000 all'anno che ci aspettavamo, in un anno pieno, quando andrà in distribuzione, saremo contenti. Quindi quest'anno 25.000? Circa, un po' di più forse. Ma c'è stato già una trimestrale di Chrysler che ha dato soddisfazione, immagino. Per il collocamento in borsa di cui si parla, lei pensa più all'inizio dell'anno o prima, magari alla fine di quest'anno? È una cosa da discutere con gli altri soci della casa, quindi bisogna parlare con il trust della Veba e decidere quando conviene a loro andare. Tecnicamente alla casa non servono soldi dal mercato esterno, una volta che completiamo questa serie di rifinanziamenti. Quindi è più per dare loro liquidità, per dare la possibilità a loro di monetizzare l'interesse che hanno nella Chrysler. Quando succederà dipende anche da loro. Comunque sarà una svolta dal punto di vista anche della gestione industriale il poter passare in questa seconda fase e quindi risolvere il debito pesante e costoso che c'era col governo americano? Sì, abbiamo già fatto vedere i dettagli, risparmiamo circa 200 milioni di dollari all'anno di interesse, non è che parliamo. Non sono sciocchezzuole, no? Son bei soldi. E nel conto economico della Chrysler, considerando la fase in cui si trova di di rinascita sono numeri importanti. Poi magari fra 5 anni non farà la differenza, ma adesso importa molto. Un'ultima cosa, c'è qualcuno che dice che lei non è soltanto un genio industriale, ma un genio finanziario, perché è riuscito a storgere il braccio dietro la General Motors e 2 miliardi. Poi con 1,3 miliardi si è comprato il 51% della Chrysler, che già oggi ne vale 6. Apprezzo il complimento, non è proprio così, perché abbiamo dato moltissima proprietà intellettuale alla Chrysler come dote agli inizi, quindi c'è stato un coinvolgimento piuttosto pesante della struttura della Fiat, il mio qui sul pezzo, quindi non è che ci hanno regalato niente, si chiama sweat equity in inglese, proprio il capitale guadagnato col sudore della fronte, no? L'abbiamo fatto veramente, sono contento. Così dunque Sergio Marchionne intervistato da Mario Platero. Ci scrive Marco: finalmente avete finito con la propaganda pro governo e parlate di economia. Non è propaganda, cioè semplicemente oggi è stato approvato un decreto legge dal governo e siamo andati a vedere quali fossero i contenuti. Poi abbiamo anche chiarito che non è per nulla chiaro che impatto avrà tutto questo sulla crescita. Parliamo però adesso di un altro atto del governo, ossia il nuovo decreto incentivi, la nuova modifica degli incentivi per le energie rinnovabili. Colgo l'occasione, visto un altro messaggio, per dire anche qua non è che si fa campagna elettorale, ripeto, si fa cronaca, poi avremo modo di commentare anche nei prossimi giorni e domani magari col testo del decreto del Sole 24 Ore di fare un commento un po' più approfondito su questo provvedimento. E magari raccoglieremo anche qualche voce critica. Dunque, è stato dato il via libera al Consiglio dei Ministri al nuovo testo per la revisione degli incentivi appunto al settore fotovoltaico, presentato dai ministri dello sviluppo Paolo Romani e da quello dell'ambiente Stefania Prestigiacomo. Iniziamo ascoltando proprio la voce del ministro Romani. Abbiamo firmato il decreto del fotovoltaico. Voi sapete che su questo punto era obbligatorio per noi fare un provvedimento che desse stabilità e prospettiva di lungo periodo al mercato del fotovoltaico, e quindi noi riteniamo che sia stato fatto finalmente un provvedimento che dà competitività ed economicità complessiva a un certo periodo. Ci sarà un decalage degli incentivi tali che siano sostenibili economicamente, ma nel contempo vengono rafforzati tutti gli strumenti a favore di una filiera industriale italiana. L'importante è inserire poi un meccanismo attraverso il decalage degli incentivi che sia automatico, il famoso sistema tedesco, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. La discussione è stata anche dura, ma ritengo che il lavoro fatto con il Ministero dell'Ambiente, anche di composizione e di mediazione fra i tantissimi interessi, e ne ha parlato prima il Presidente del Consiglio, che riguardano il campo energetico italiano, ho l'impressione che lo strumento che oggi abbiamo firmato sia di mediazione assoluta. È uno strumento che era obbligatorio e necessario perché si inserisce in un contesto di provvedimento Salvacoa e terzo conto energia che già c'era. Saluto i nostri due ospiti, Carlo Stagnaro, direttore energia e ambiente dell'Istituto Bruno Leoni, buonasera. Buonasera. Autore di una plastica e divertente descrizione del primo convegno di apertura di Solar Expo su Chicago Blog, tra l'altro diretto dal nostro Oscar Giannino, e oggi di un approfondimento invece sul contenuto del decreto. E saluto anche Gianni Chianetta, presidente di Assosolare, buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Vi chiedo di attendere un minuto, il tempo della viabilità. Le 18 e 17 minuti, dunque parliamo di incentivi alle rinnovabili, iniziando da Carlo Stagnaro, direttore energia ambiente dell'Istituto Bruno Leoni. Allora, Stagnaro, mi sembra che si possa, e lei lo ha scritto mi sembra in maniera molto efficace, si possa dividere la questione in due, ossia da un lato c'è la questione dell'incertezza normativa che ha avvolto tutta la vicenda fin dal momento nel quale si è deciso di rivedere questi incentivi, e questo è un danno oggettivamente grave per le aziende che devono programmare decisamente a lungo termine. Dall'altra parte c'è il fatto che ad un certo punto gli incentivi devono andare a morire, perché sennò drogano il mercato, no? Ma sì, le due cose sono chiaramente molto distinte l'una dall'altra. Il modo in cui la faccenda è stata gestita ha lasciato, per usare un grande eufemismo, molto a desiderare in più di un momento, e questo non solo per il danno evidente che viene causato alle imprese direttamente coinvolte, che hanno magari iniziato degli investimenti e non sanno quanti incentivi prenderanno e quindi non sanno se il business plan con cui hanno ottenuto il finanziamento in banca sia ancora valido o meno, evidentemente questo è un problema enorme, ma causa un danno anche a una serie di imprese o comunque la percezione che del paese hanno una serie di imprese che lavorano anche in settori che nulla hanno a che vedere con le rinnovabili e che hanno l'ennesima prova di un paese, come dire, che fa un passo in avanti, due indietro, poi tre avanti di nuovo, poi due a destra e quattro a sinistra. Come dire, c'è anche un danno d'immagine in quel che facciamo vedere agli investitori esteri. Sì, un danno d'immagine che deriva dal fatto che la vicenda a cui abbiamo assistito sulle rinnovabili, che è stata sicuramente più clamorosa rispetto a tante altre, ma non è stato un fenomeno isolato, cioè, come dire, non è la prima volta che l'Italia cambia idea a partita in corso su questioni anche importanti, rilevanti per l'economia nazionale. E questo è evidentemente, come dire, un problema, un danno che in qualche maniera è stato fatto ed è difficile recuperare a prescindere da quello che c'è scritto nel decreto e a prescindere dalla valutazione che si dà anche in termini di garanzie rispetto agli investimenti già iniziati e già avviati. E poi però contemporaneamente c'è un problema di sostanza, che è quello che mi sta più a cuore in questo momento. Il problema di sostanza deriva dal fatto che noi abbiamo avuto fino ad oggi incentivi che erano troppo alti sia rispetto al beneficio ambientale che viene prodotto dall'installare una certa potenza di fotovoltaico, sia rispetto al costo di generazione del fotovoltaico stesso, e quindi incentivi che davano una remunerazione probabilmente ingiustificata. A maggior ragione questo è vero se guardiamo avanti anziché indietro e prendiamo atto del fatto che non solo il costo della tecnologia fotovoltaica si è ridotto in misura significativa negli ultimi anni, ma se prendiamo anche atto del fatto che molto probabilmente si ridurrà in misura ancora più significativa nei prossimi anni. Io credo che l'esigenza di una riduzione, di un ripensamento degli incentivi non fosse di per sé in discussione. Era in discussione ovviamente il quantum ed era in discussione il quando e il come, che sono i temi su cui c'è stato tutto quello a cui abbiamo assistito. Naturalmente. Allora, coinvolgerei a questo punto Gianni Chianetta, che è presidente di Assosolare. Tra l'altro vi segnalo, tra le notizie di oggi, c'è quella che 150 aziende aderenti ad un'associazione che è stata creata di fatto apposta, SOS Rinnovabili, hanno annunciato un'azione legale contro il decreto firmato oggi. Il primo ricorso verrà presentato alla Corte di Giustizia Europea perché il decreto del 3 marzo scorso non recepisce la direttiva europea. Seconda azione sarà avviata nei confronti del TAR, senza tralasciare la possibilità, si legge, che finisca davanti alla Corte Costituzionale dal momento che il provvedimento danneggia le aziende. E questo è il quadro. Allora, Chianetta, mi sembra che la prima parte, dal vostro punto di vista, dal punto di vista delle aziende, la prima parte del discorso di Stagnaro è ampiamente condivisibile. In fondo è quel che avete detto sempre, insomma. Quel che forse danneggia di più è l'incertezza normativa. Dal lato, invece, più puramente degli incentivi. Sicuramente, quindi io confermo quanto è stato detto, il fatto che averci lasciato in una incertezza così grande ha determinato ovviamente sfiducia nel paese Italia e quindi avrà delle conseguenze anche in futuro su quello che sarà il rapporto debito equity praticamente richiesto alle banche, dove aumenterà ovviamente l'equity richiesto alle banche, quindi aumenterà il peso sulle imprese che dovranno investire. Paradossalmente chi avrà full equity forse avrà meglio da questo punto di vista, e quindi si dà denaro a chi ce l'ha già in questa maniera. E abbiamo avuto una situazione tra virgolette drammatica, e il nuovo conto energia, come è stato detto, in realtà c'è una riduzione dei costi che è indubbia e l'accelerazione che ha avuto non solo è inaspettata, ma contrariamente a quanto diceva il Ministro e l'abbiamo più volte detto, è insostenibile dalle aziende. Ci sono le aziende che saranno costrette a fare marcia indietro e a chiudere, ci saranno delle aziende che hanno investito durante il 2011 confidando in un conto energia con dei contratti di fornitura ovviamente precedenti, che alla fine chiuderanno con dei margini negativi. Quindi questo è, riteniamo, un atteggiamento irresponsabile da parte del governo innanzitutto. Poi sul fatto che in futuro ci sarà un mercato e che ci si adeguerà dei costi, delle tariffe più basse, dei costi diversi, questo confido sul fatto che ovviamente si lavorerà per quello e si avrà un mercato, però avremo uno stop che sarà un arresto a quel processo di economia di scala e di esperienza che è proprio quello che ci deve portare a Green Parity. Chiarissima, quindi Chianetta, per essere poi anche abbastanza netti, la vostra posizione su questo nuovo conto energia è negativa, cioè non siete d'accordo? Nell'insieme no, ci sono dei fattori positivi che sono i 23 gigawatt al 2016, una prospettiva al 2016 del sicuramente parlare di un range tra i 6 e i 7 miliardi, mentre prima si parlava di 6, però gli effetti e gli articoli che riguardano l'immediato e quindi il periodo famoso transitorio sono talmente negativi che ci fanno vedere negativamente nell'insieme il provvedimento. Questo è chiarissimo. Mi sembra, Stagnaro, che da questo lato lei condivida, se ho letto bene, nel senso che questa tagliola, come scrive lei, questa ghigliottina del 31 agosto è forse un po' troppo netta e un po' troppo presto, insomma. Ma probabilmente sì, nel senso che la ghigliottina appunto si abbatte su una serie di investimenti che sono stati avviati, non dico prima di oggi, ma prima del 3 marzo, quindi prima che ci fosse anche, come dire, il sospetto che il regime di incentivazione avrebbe potuto cambiare. In questi casi, come dire, lo dico da sostenitore da tempi non sospetti di una riduzione degli incentivi, vale un po' la norma che chi ha dato e chi ha acquisito titolo di prendere prende, ecco. E questo perché è importante fare un utilizzo appropriato delle risorse sottratte al consumatore elettrico, ma altrettanto importante dare un'immagine di paese serio che rispetta gli impegni che ha preso. In tutto questo c'è, secondo me, una parte molto critica nel decreto, immagino che Chianetta sarà abbastanza d'accordo, che è quella che riguarda l'obbligo di iscrizione a questo registro presso il gestore dei servizi energetici, che appare molto come un tentativo di complicare l'iter per ottenere un risultato di per sé condivisibile, cioè quello di indurre un regime di investimento che sia sostenibile per il sistema, oltre che per chi investe. Però ancora una volta, forse sarebbe stato ancora meglio avere una riduzione ancora più sostanziosa, ma pianificata bene e proiettata più chiaramente nel futuro. È chiaro che più si aumentano paradossalmente i costi di entrata sul mercato, più a parità di obiettivi che vanno comunque raggiunti, perché ce lo chiede l'Unione Europea, più sono alti i costi, più devono essere alti gli incentivi, quindi quello che con una mano si toglie, con l'altra alla fine si sarà costretti a ridarlo in qualche maniera, e questo ha un che di perverso. Ultimo punto però, che è una parziale attenuante rispetto alla violazione della certezza che c'è sul mercato, eccetera, eccetera, è vero tutto quello che ci siamo detti, è anche vero che gli incentivi come erano stati disegnati originariamente erano un 13 sicuro al totocalcio, sì, il 13 sicuro al totocalcio non esiste. È certo, e come ci scrive un ascoltatore, giustamente, un'azienda che si regge solamente sugli incentivi non ha senso che stia sul mercato, perché di fatto sul mercato non ci sta. Un'ultima domanda, e chiedo di essere brevissimo a Chianetta perché abbiamo appena un minuto, sempre al pezzo di Stagnaro, ma anche stando a quello che ci scrive un ascoltatore, non è che su tutto questo ha pesato un po' la frammentazione della rappresentanza del settore? Insomma, ci chiede un ascoltatore, ma quante sono le associazioni che rappresentano le aziende di settore? Ma sicuramente questo è un elemento negativo, il fatto che non ci sia un'unica rappresentanza del settore, una rappresentanza che sia forte e consistente. Quello che noi abbiamo cercato di fare è di essere perlomeno una rappresentanza autonoma e abbastanza diretta nel dire le cose sia a Confindustria sia al governo. Anche noi siamo aggregati in Confindustria, però ci siamo dissociati dalla posizione di Confindustria, abbiamo potuto farlo. E sicuramente è importante poter crescere, poter essere un'associazione molto forte e molto, molto determinata. Va bene. Posizioni diverse, chiaramente, come avete sentito, e ve le abbiamo riferite tutte. È tutto per questa puntata di Focus Economia, alle 18:28 minuti. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Da Simone Spezia una buona serata e un grazie a tutti voi per l'ascolto, come sempre. Radio 24, la passione si sente.